scriverti. Parto domani e non so se ritorno. Ho cercato di spiegare, non sono brava e te lo ricordi. Ho scelto forse il meglio, sai, certo, il meglio per me. Restano solo lacrime, gesti che mi porto addosso. Quanto è stato inutile fare finta di stare bene e con la solita allegria dirti sai devo andare. Mai t'avrei tolto stare male così. Mai ho capito quale errore sei. Ma i sogni spesso non ritornano e questo è il mio, non voglio perderlo. Il mondo tarda ancora a svegliarsi stamattina, aspetta ancora un'ora. Fare i conti con quello che resta e quello che passa. So che da domani poi tutto potrà sembrarmi normale. Forse io cancellerò le mie paure prendendo quel treno. Non ci credi adesso tu e so come vedi più nero il futuro. Mai t'avrei fatto stare male così. I sogni spesso non ritornano e questo è il mio, non voglio perderlo. Il mondo tarda ancora a svegliarsi stamattina, aspetta ancora. Volevo scriverti, parto domani e non so se ritorno. Ho cercato di spiegare, non sono brava e non so se ricordi. se poi davvero tu restassi qui, col tuo sguardo potente così, senza quel sogno di andartene via, come farei con te? Puoi sempre dirmi che non penserai a tutti i gesti nascosti fra i tuoi, ma ogni segno, ogni graffio che avrò di te mi parlerà. E sarà tardi per tornare indietro e stare svegli per vivere il minuto sui nostri passi. Il mare è già tornato a cancellare tutto ciò che è già finito. E non c'è chi vince né chi perde, però io non voglio il vivere che ho. Anche il tempo ormai non cura più, chissà che curi te. Dirti buona strada è banale ormai, e ricorda solo che non ci sei. Non ci sei. 3 minuti è tutto quello che ho, e son sicuro che sarà tardi per tornare indietro e stare svegli per vivere il minuto sui nostri passi. Sì, il mare è già tornato a cancellare tutto ciò che è già finito. Se coi ricordi nessuno ha mai vissuto, e più li guardi e capisci che hai sbagliato, ma non voltarti per non sentire il peso dei nostri sguardi che si chiedono perché.